Facendo fuori. No, questo ci avevi la scheda. C'era tutto, però era tutto tracciato, tutto mollato, io l'ho messo insieme, ho regolato stamattina, ho messo un trimino, un trim, che era tutto spaccato, non so io cosa sia successo. Da dietro lo spinotto mentre al collo era tutto tracciato insieme ai fili attaccati alla base, masse corrente comprese quelle bobine, quelle specie di ferrite che ci hanno accigliata con il rame, tutto era tracciato, tutto tracciato, poi io gli ho rimesso tutto a posto, rimesso la scheda ecco, collegato tutto quanto e provato a fargli delle regolazioni. Diciamo che ti sei abilitato, dai. Invece devo cambiare la lampadina a questo alimentatore che è fulminato, non ha giù per giocare, la lampadina è da valva. L'alimentatore lo devo montare, staccare i fili, poi c'è tutto dentro il cassone che c'è dove ci sono gli apparecchi. Insomma, è un casino a smontare. Perché aspetto e quando mi arriva l'altro alimentatore, perché mi è arrivato l'alimentatore e sono andato a attaccarlo, come ho messo on, ha fatto si è staccata la luce di casa, l'interruttore salvavita, l'ho fatto a riattaccare, ma accendeva più, gli altri alimentatori funzionavano. Cosa è successo? Ho provato a cambiare anche il fusibile, non c'ha nulla. Non si capisce questo alimentatore cosa abbia preso. Io invece avrei iniziato a fare una cosa, ascoltesse. Vedi dove entra, c'è qualcosa di massa nel filo che arriva dalla... Ma ti ha fatto scattare il contattore come hai attaccato? E adesso se tu l'attacchi cosa succede? L'attacchi, non scattato il contattore però non funziona. Allora di lì c'è da vedere qualcosa. C'è da vedere un qualcosa. Sono sicuramente i fili che vengono dalla corrente, o erano collegati male qualcosa all'interno, qualcosa nuovo da questa cosa. Sono di zecca, l'ho spedito indietro. 50 ampere erano, non 10 ampere, ma 50 ampere di quelli professionali. Li ho rimandati indietro, gli ho detto, ma te è strano che sia successa questa cosa, non è che ha avuto qualche sbalzo di corrente, ho detto, se avessi avuto lo sbalzo di corrente mi sarebbero partiti anche tutti gli altri apparecchi che ci hanno attaccato, quindi non è una cosa possibile. L'ho fatto controllare anche a Pierpaolo e mi ha detto che era trasformatore, che era partito il trasformatore. Sì, qualcosa del trasformatore c'era dentro, o era messo qualcosa a massa del trasformatore e niente. Ricordati una cosa, se è andata bene non c'era qualche apparato attaccato, perché secondo me ti brucia anche l'apparato. No, ce l'avevo l'apparato attaccato invece, sempre con quell'alimentatore lì. Ce l'avevo, infatti quella paura che ho avuto io, subito acceso la parte con l'altro alimentatore e funzionava. È partito, è bello, quello che non riesco a spiegarmi, che aveva il fusibile non è partito, capito? Oggi, non è partito il fusibile prima dell'entrata alla corrente. È positivo, positivo. Oh, bella quella che c'è, Swatch, come si chiama. Cavolo, se sbagli qualcosa collegandolo, si va in blocco, lui si ferma e non ti brucia niente. Switch. E io che cosa c'avevo? Perché quello 50 per che cos'era secondo te? Ah no, di quelli, io che cos'hai? Ma fa niente, può essere. Ce l'ho solo a casa, non sa neanche ce l'ho qua. Io era... Boxer, suicidi. Positivo, io c'ho quello, mi sembra che nella faglietta, non ce l'ho neanche attaccato, dai. Tanto c'ho tutti questi alimentatori costruiti da Giancarlo, tutti e due, e li porta bene le radio. Poi io c'ero uno che c'ho anni di alimentatore che ti segna 9 ampere. Però te li dati 9 ampere, non è come certi alimentatori che ti segnano 9 ampere perché la detta GIP te ne danno 3. Questo qui 9 ampere te li dati perché ho provato a caricarlo e non si abbassa di nulla, pareti, il coso lineare, il coso, guarda, è una cosa pazzesca, tiene un bel. Ed è un alimentatore perché io, la verità mi piaceva molto, quello era bianco. Come sono arrivato a casa, l'ho smontato il coperchio, l'ho messo sopra la veranda lì e l'ho verniciato, l'ho fatto nero come tutti gli altri pezzi della stanza per non sfigurarlo. E così è rimasto sempre nero. È positivo, positivo. Vediamo, ma l'eco, questo che tira finale, è veloce o perché l'ho rallentato, più di così non posso, no, bisogna cambiare ancora il trimmer. È veloce o è lento? Secondo me può andare bene. È un eco che va bene, dai, non aveva di mezzo. Non è né troppo veloce né troppo lento, è una via di mezzo. Così no, così come non si può rallentare, dai. Ho allungato la coda finale e l'ho rallentato a lui il massimo cambio. Portata la radio a 3 watt da dentro, regolata. E poi tutta l'altra l'ha già fatta, guardato, era già tutto aperto di radio, di passato solo i watt, infatti li ho portati a 3, sono 3 watt così. E poi ci sono i picchi, 3 watt sono. Già va bene, così va bene, E questo ve lo dico. Ah, è di Palmirio, gliel'ho messo a posto io. È di Palmirio questo. Lo fanno buttare via. Ti puoi immaginare, ce l'aveva 6 mesi buttato. Perché no? Ciao Pier. Dove sei? Dove sei di bello? Sono a casa, so. E campagna per se mi lascia un attimino di tempo a piantare un po' di patate. Che parroglio, ma va la sisa, va la sisa il pacco da... il sacco da cosa da 5 kg, gatto, non un euro. Ah, così devo fare, sì, che faccio prima. Io ho preso tre sacchi, vado, lo ricordo, un euro il sacco, quelli a 5 kg, alla sisa. Vediamo, vai, ci faccio un saltino, cazzo, ne rimango lì un attimino. Stamattina sono andato in campagna cercando un po' di asparagi e adesso già vado giù e se riesco pianto una 15 kg vado a piantare, c'è un pezzo di terreno. Positivo, ma poi ci vuole la zappa a togliere, mi bisogna zappare per togliere le patate, lo sai. Beh, ma ci manda mia moglie. Sua moglie ci manda, e poi si stanca, e fa male la schiena, ed è un casino. Meglio, almeno usciamo da soli poi la sera. Ah, così, tu vuoi fare il contrario, Vai, dai, ci sentiamo, rimango in modulazione, dai, vediamo già che campagna ricevo ancora. In caso, fatto per la buona, dai, ciao Gigi, a te al tuo amico. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, già, Gianni, fammi ascoltare questo bagno. Tanto i colori erano due anche nell'altra. I fatti cambiano da 50 a 40, quanto vanno quelli? Da 45 a 75. Quelli erano 45 e questi sono 75, così. Capo, capo. Gavi, faccio Gavi. 4, 4, 4 e 50. L'hai pagato? Capo. Le funzioni sono uguali. Sì, sì, tutto uguale, uguale identico, apparecchio, apparecchio. Preciso, preciso, preciso. Cambia qualcosa di finale, qualcosa di dentro. Beh, quello sì, quello. No, quella, io non è che... Se già mi vedi, se già uno di quelli là e poi fa lo stesso lavoro, capito? Il bello è che noi quelli lì, da 45, quando li modifichi, le porti massimo 15-20 watt. No, ma questo qua, questo che vada bene, come ti arrivo a insegnare? Oh, abbastanza bene. Va bene, la radio si sente buono, ma è solo al massimo perché. Come radio? È radio? È radio? Sì, è anche come radio, no? Sì, sì. E prova a passarli al minimo quanto sono 3 watt, quanto so. Sì, non li ho mai misurati, al minimo. Prova a fare un passaggio basso e poi a metà. Guarda, dici, così è basso. Allora, al minimo arrivano esattamente a 2 millivolt. Adesso cosa ti dico, al minimo? Eia. Minimo. Vai al massimo, al massimo. Cavolo, guarda, così al massimo. Al massimo. 1, 2, 3, prova. E prova. Sai che mi prendo le cose, c'è un piccolino, ma c'è qua uno, vediamo un po'. Allora, tu mi devi fare un momento quel passaggio al minimo. Così al minimo, minimo. Va bene, vai al massimo. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Che cavolo c'è la senza che pari. Però quando sei al minimo, sì, non vai in questo caso sei 9 e 20. Al minimo chiusemi, ma lo sai. E poi sei quasi al ballo. 9.30 oltre non puoi andare, 9.30 sei poi al massimo. Appagato. Però anche al minimo è molto alto. Di me, non di 50 watt 40 watt, no, là. sta passando, eh? Ma io dico moneta nel senso roba graffiata, roba così non mi piace. Se ti è nuovo ti è tutto bene, allora sì. Ma se no roba brutta non mi piace. È proprio l'estetica che non mi piace, quando la metto in stazione deve essere proprio bella la roba. Adesso mi si è fulminata la lampadina dell'alimentatore, ce l'ho davanti agli occhi la lampadina per pronta per cambiare, ma non mi dà di cuore, lui a ciamballa perché devo staccare la spina, smontare il Galaxy. Togliere la spina che passa dietro, se la prolunga, togliere l'alimentatore, staccare gli spinotti, se non la giura, perché poi cambiarla è una cazzata, cambiarla c'era proprio sopra, come la più il tappo c'era. Oh ragazzi, è morta la moglie del padre di Salvatore, ha visto di Barra Agricola. Ah, vero? Sì, ho visto l'infarto, non può fare il bagno morto. E il funerale stasera, qui al Papa. Campana. Bella notizia. Vabbè, ma non è la madre, non è la madre di Salvatore. La matrigna, infatti ho detto la moglie del padre, ma è la matrigna di Salvatore. Campana. Purtroppo, è così. Qui l'altro giorno doveva andare a fare una consegna con la zona. Si chiamava via San Pietro di Ottava, perché se lo sa ben dire lì, non abbiamo trovato subito. E San Pietro di Ottava è guarda nel nord ponte di Ottava a sinistra, se andare verso che porta dentro il campi di San Giovanni, quello è San Pietro di Ottava, me lo sa, dove c'è quel tubo verde. Ma la cosa era un po' difficile perché è arrivato nella via San Pietro d'Ottava, c'era il numero per dire io dovevo andare al 42, arrivavi al 38, poi passava al 46. Certo, ma come è possibile? No? Sono tornato indietro e c'era una traversa, c'era scritto Bed Breakfast. Sono entrato lì su ed era lì. Ma dove sei entrato? Qua salendo per San Giovanni, sulla 131? No, sono passato da sotto a San Giovanni, prima del passaggio a livello già andato a sinistra, poi arrivati al bivio a destra. Ma chi ha dato bene proprio dove si entra? Però ce ne dovrà andare lì. Sì, la salita sta nel ponte di Ottava, di San Giovanni, guarda sulla pista c'è una pompanella, ma c'è una stradina. Quella ti porta a... quello ti porta lì, capito? Ma io stavo salendo al Porto Thomas. Caricato i mobili e devo portare questo a casa. Positivo, invece già a sinistra gli ha dato a destra il tuo e quella lì sporta la tua parte già di meno di San Giulio, di quella zona se continua. Oh. Vabbè, io non è che... Poi col furgone è un po' stretto a passare, un po' un casino. Se devi girare e tornare indietro, oiui, devi acciappare un cancello che se no gira un casino. Sei andato verso la chiesa di Ottava, giusto? Ah, di San Giovanni. Te l'ho detto, ho girato prima del passaggio a livello dove c'è la ferrovia, là. A sinistra, poi sono andato in fondo, all'incrocio a destra. È positivo così, perché la via è quella lì, dove c'è Simola, c'è lì. Dove c'è il Bread Breakfast, se non sai dove... Positivo, già lo so. E questo va bene, il microfono qua. Appa. Ok, sia. Luca, tu cosa ne dici questo microfono? Va bene o fai effetto camera? No, non va bene, fa effetto camera. Cosa va a bene, fa questo camera a lui, non mi piace. No, io sto qua, sono sforzo, sono da stamattina a questo in piedi già. Cazzo, mi sono domandato verso ieri sera e stamattina. Adesso faccio un po' di fusino, mi ascolto, finché non mi vedo la blocco. Ma se ti senti ci sentiamo dopo, rapida. Sono un bel sacco, domani un'altra giornata. L'impattatrice. Ma che effetto fa? Effetto camera da letto o camera da pranzo? Effetto cosa fa? Magazzino. Ah, si è ammazzato perché tu li metti nelle più 4, normale che fanno la cattura lì. Ora sai come, ma vai, dove si non lo fa. Perché vai, dove si in quel lì chiuso, capito? Non va bene, mi lasci. È positivo, aspetta un altro controllo Luca, se non ti scoccia. Allora, se io lo metto così cosa succede? Se faccio questo lavoro così cosa succede? Cambio. Tanto va bene, tanto qui è troppo alta. Così? Allora, prima ce l'avevo così, guarda. Prima era così. Un passaggio, questo è il Michigan, sto toccando l'apparato io. Sì, ho capito. Se la passi leggermente, come lo sappi, ma la passi leggermente va bene, più forte. Cioè c'è troppo a radio, troppo ripetizione. Allora, diciamo così è tutto aperto, così. Allora vediamo, così è appena appena, guarda così. E così va bene. Va bene, allora la posizione, perché se io vado. Oh, adesso l'ho chiuso a metà, guarda. Più bassa. Allora la posizione sua è questa, ma non leggo anche tanto dove ci sono, così mi ricordo i punti e me li segno. Guarda un po', leggo, io ce l'avevo così, leggo è meglio, guarda così, un po' come la prima. Cambialo, vediamo un po'. Allora questo è un passaggio più al minimo, così è come la prima. Ciao. Lui, dai, vabbè, aspetta un attimo, mi si è disconnesso il computer, un attimino, che cazzo va a pigliare, c'è segnale, ma comunque va bene anche così, dai, già sta girando bene, ecco. Va bene, va tutto alla grande, addio. Thank you. Attenzione Antonietto, vabbè ci sentiamo. Attenzione Antonietto, Antonietto, Gabbo, Gabbo. E beh, dici. Stavo dimenticando, quello dell'ascia mi ha detto, ma dici venduto la apparecchio, ho detto sì proprio l'altro giorno, no, ma di battente, Dice io, sono appassionato di quelli siciliani. Se ci va bene, detto quello che dici, è fatto male non prenderselo. Guarda, ti dico la verità, Olgia. L'ho detto, questo mi ha sentito l'isola di Utiam. Io non è che lo conoscevo, è venuto qua, io non lo conoscevo, è venuto qua e gli ho dato. Anzi lui, a dire la verità, mi ha offerto 550 euro perché gli avevo detto 100 quanto costava. Dice dammi il tuo, ti do 100 euro, te lo faccio fare, se mi dai un baracchino te lo faccio fare, 48 te lo mando a fare. Diciamo dammi il tuo, e io gli ho preso 500 euro, lui anzi voleva dare 550 euro, gli ho dato 500. Ma tu ci aveva creduto che un laboratorio, quello di vero? Beh, mi era completo già, mi era tutto, era diverso, no? Quello che ci ha fatto vedere a Bertolo e a, come si chiama, e a Massimiliano, gli ho fatto vedere i picchi come si arrivano diversamente i miei da quando modulati, dai. Ma c'è sempre, non sai che le sigle, le mie sigle, tutta un'altra cosa. Sono passato sotto casa di Gio Maria l'altro giorno. Massimiliano Gio Maria lo sentiva dalla 131. Io sono passato sotto casa sua, manco un bibilio, niente. Sì, quello lo so, però c'è un particolare che modificati, non è la stessa cosa, modificati non spingono, non fanno bene come vanno bene, gira bene come girano gli altri, già ha fatto due o tre già Roberto, a parte tu li hai fatto già col doppio modulatore, però non è la stessa cosa, capito già, li ha fatto col doppio modulatore, li ha fatto già tre Roberto, però non è la stessa cosa del 48, infatti dice no, lo fa chi si accontenta, però no, non è la stessa cosa, dai. Poi mi hanno detto che c'è uno che 48 li fa e dopo che li fa non prendono più splattere né nulla. E molti già li sanno fare e si appendono di più, ce ne sono molti. Tu, io ti faccio vedere questo del Fazzario, a me come il Fazzario piacciono, non prende, guarda, è bello che non c'è il doppio modulatore, c'è una specie di un'altra scheda elettrica dentro, che è pompa più di un doppio modulatore se ti fidi. Una batteria elettrica? Ma cos'è? Ma a casa c'era Leo Trenino, c'era questo Dario, la zona di Mantova è Dario, ma è bravo, ti dico, è bravo, e poi bravo sai anche chi, nel Magno, nel 48, nell'8001 è bravo anche Leonardo sconosciuto. Buongiorno. Buongiorno, Massimiliano, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera. Io te la posso dire una cosa, che un maracchino che non prende conti e anche vuole fare con la piazza. E te l'ha detto io, dico, l'ho fatto l'altro giorno lui. E c'è la cosa, lui, c'è la torre, quello che lavora con l'Uriga, e io l'ho fatto lì con la piazza. L'abbiamo provato l'altro giorno, io quando parlavo con lui, il baracchino zitto, non capivo niente, nessuno, proprio zero, non sentivo nulla. E noi lo pigliamo manco un colpo. Aspetta un attimino, chi c'era? C'è la cosa, quello che c'ha il mare rosso, Salvatore si chiama, non so il cognome, non so se c'è nominativo, comunque ce l'ha fatto arrivare da cosa, ma Nicola Pirata. Ma cosa stai dicendo? Io posso dire che tutti gli apparati che ci sono qua in Sardegna di Nicola Pirata, capito? Tore, quell'apparato lì, tramite Tommaso Civa, di Piero Lumazzone e poi gliela modificata, gliela messa a posto, Roberto gliel'ho portato io. Però è bruciato lui. tu, dice lui è bugiardo, bugia mi ha detto, bugia che sto dicendo. Ma quando l'ha preso questo? Allora, l'anno scorso gli ha fatto del problemi, l'abbiamo messo a posto l'anno scorso. Dimmi quanto ce l'hai questo apparato. Io l'ho conosciuto, guarda, quando stavamo facendo uno scavo lì a Coso, al mercato, là, di fronte al mercato, quando ho fatto il Banco di Sardegna, uno nuovo. Quanto sarà fatto? 2 anni forse. È più o meno l'età tua, mio, più ragazzo pure, questo sto dicendo io, Tonemi. E io, cazzo, c'è preso quelli verdi, è più giovane di me, è di Ossi. Che, digli, ma questa, no, è la parata di Tommaso, quello lì. Lui, infatti io gli ho detto, ma che te l'ha fatto? Gli ho detto, questo me l'ha fatto Nicola Pirata. Ha messo il paracchino, tutto lui, 450 euro, spedito, nuovo, nuovo. Sì. Già lì, già il prezzo non torna. Allora, un baracchino di Nicola Pirata. Prima di tutto è difficile averlo entro un anno. Uno. E Nicola Pirata ne voleva l'anno scorso 550. E quest'anno l'ha aumentato, capito? C'era Iudici Ciombello, il baracchino di Nicola Pirata, c'era un altro che conosci tu qua adesso, di Nicola Pirata, c'era Palmirio, il 48, quello è Nicola Pirata, quello che c'è a Palmirio. Ma cosa vuol dire, Carlo? Se bugia mi ha detto, bugia ti sto dicendo. Così mi ha detto lui, così ti sto dicendo io. Ciao, Massimiliano. Nelle funzioni. Ma ti vanno, non l'hai visto tu? Io ho visto solo il baracchino, basta, colorato di blu e basta, non ho visto né antifanno né niente. Ma già lo so io. No. Ma vedi, di noi è di Nicola Pirata, quello lì, capito, è di Lumacone, di Piero Lumacone, capito? E scusa, cosa ne aveva lui di dirmi che era di Piero Lumacone e non di Nicola Pirata, scusa? Cioè, non ho capito perché questa bugia. Perché poi te ne incausati, sarà venuto in mente Nicola Pirata, però forse non sa che di Piero Lumacone, ma il Piero Lumacone non è a meno di Nicola Pirata, attenzione. E c'è una buona. Comunque, colpi non è presa, proprio zero per niente. Colpi come intendi dire tu? Colpi nel senso, come ha detto Gianni, mio. Nel senso, io quando tu presenti adesso la casa tua, parli che sei un altro canale, cioè lo smitter a zero, non sento niente. Nel senso, cioè non comprendo nulla, mi sei tutte le mani un altro canale, io qua non capisco niente. Capito? Invece lui, l'altro giorno abbiamo provato, io ero in macchina, quando parlo con lui, cioè cazzo, lo smitter proprio a zero, il macchino muto completamente. Quando parlavo io, lui continuava a parlare con un'altra persona, la sentiva tranquillamente a bene. Ammetto, ci sono tutti i fili scarmati, dentro un casino di fili, tutti a alta prestazione, capito, no? Di chi si muovono per no. E come fa Albino? Albino fa così, Albino lo scherma un bel po' il baracchino. Lo so, ma sono molti che lo fanno bene, te lo sto dicendo, lo fanno bene e non prende colpi veramente, però non è di Nicola Pirata, è di come si chiama, dai, di Lumacone, quello lì. Ma tu non pare, non mi ricordo, tramite Palmirio, Tommaso, ci avevamo fatto vendere. Non te lo so dire, Cigliaria, lui mi ha detto così ti sto dicendo, bugia mi ha detto, bugia ti dico, comunque. Dimmi cosa si fa. Di Piero Mancone, è una radio che va benissimo, c'è bene, tutto bello di lusso. È positivo. Questa cosa che sto operando io, ti sembra... Massimiliano? Sì. Ciao Antonello, non in controllo, come sto uscendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ma se non è più 10. Dove sei? Caso. Ah, San Giovanni 9:10, già va bene. Ma che fanno se con buio? Sveglia. Ma quanto è andato così? Boh, sì, guarda, c'è anche Luigi con un pochino più lontano di me. Luigi, a te come ti arriva? Non rispondo perché ha chiamato solo a te e non ha detto niente e non ha salutato. E allora vai e sciacqua di Zuzzuco. Quello tuo fuoco butturo, eh? Dammi un controllo, se no ti metto la portante di cacciopo. Cosa vuoi sapere? Dimmi cosa vuoi sapere, va bene la radio, Antone. Anche il segnale, ciao lui, salutone. Come va il segnale? Guarda un po'. Non sono a casa mia, eh. Ehi, non, a casa dove sei se non per 20. Non lo so, questo è un apparato messo a mano da me. Messo l'ecco, la scheretto gliel'ho montata io sotto. C'era già, gliel'ho rimontata io, ho collegato tutto. Ho saldato i fili, ho attaccato la presa del reato tracciato, ho regolato la scheda, non so se vuoi stare testa giù o testa in su. Comunque, lo Smith devo ancora illuminare lo Smith. Comunque se non mi vedi qua, la radio è ottima, radio Super 5, capisci? Va bene, ti ringrazio, ci vediamo dopo, dai, ciao. Il cavimario, l'antenna piazzata la vita. Si lotta? Capai, non stavo guardando lo Smith, comunque l'ho immaginato, vai, vai. Anche perché ieri ce l'ha volato lei, allora che dovevi andare. Pomponio, pomponio. Un problema, avete problemi, non c'è. Oh, fatemi la mano, ti vedo sopra, puoi andare? Sì. D'accordo. Ho detto lì, tu non riesci ad andare, sono problemi in sostanza. No, no, nessun problema. Io così da, andare. Io come ti sto arrivando con il nuovo apparecchio? Bene, bene, 9:30. Va bene, va bene. Scusa un attimino che se devi fare delle prove poi sto ripassando subito, va subito. Va bene, la ripiglia pure, sta facendo delle prove. Pomponio, sì, dimmi caro. Beh, stazionari come sono. Boh, dovrebbe essere 1-1, No, è stai controllando. E io dopo li controllo, attacco il rosso, metto dopo e vediamo. Cap. Ma già farà, tutto. Eglia. Quindi è tutto a posto, sta tirante, tutto messo. Tutto messo. Bravi, bravi, bravi, bravi. Da stamattina ci siamo. Eglia. Va bene, adesso male è contento. E Davide, Davide, che dice? Davide, Davide, che sta facendo cosa? Adesso una per Davide ce ne vuole, no? Cosa? Altra antenna per Davide. Vedete, c'è solo antenna qua, voi. Cavaga, cavaga, ma non sul tempo. Aspetta un attimo. Prova. 1, 2, 3, prova. attenzione sul canale 5. Morbido, gli ho messo di quel microfono Midran originale. la capsula del microfono Cobra e gli ho adeguato la carcassa CTE. E già va bene, io non me la sembravo, già va bene. E invece io ci stavo provando quella cosa di aprire, poi è tornata Pierpaolo. Questa casa mi sa, però una cosa lucida, anche non completo la cosa. Ma già, tu hai provato due volte, io ti ho ascoltato tutte e due volte. Anche stamattina quando ho parlato con Luigi, che Luigi addirittura ti ha detto che eri fuori frequenza, ma era una cosa satura, impressionante. Io non ti ho voluto dire niente, non sono voluto entrare, non ascolto e stavo facendo cosa. Poi hai parlato con Graziano ti ha detto addirittura che stava andando benissimo, ed eri sempre saturo. Poi, vabbè, è entrato Pierpaolo e te l'ha detto. Io quando è entrato Pierpaolo, quello ci sono entrato dopo le due, è staccato un po' tutto, però già, sempre saturo. Io penso che sia una cosa di adattamento, Massimiliano, perché arrivato a questo punto le stazionali sono 1 e 1. 1 normali, 1 e 1, 1 e 2 quando attacca. Quindi penso che sia una questione di allineamento con l'apparato. Con questo apparato si adegua al 746. Non ce ne sono altri che vanno bene, perlomeno di quelli che ho provato, non ce n'è uno, se c'è quello mio che arriva a 220 watt, che è un peccato. Salve. Se lo vendo non lo vendo meno di 80 euro, perché quello lì pompa forte veramente. A casa di Pierpaolo è andato bene, l'ho provato qua, che è satura, non comprendo qua cose. Ma se la fare lo faccio io, non lo devono fare tutti, non ho capito. Quello lì vale un bene di nada, quello se l'ha sbarazzato perché si è venduto tutta la stazione perché stava diventando un OM e a me me l'ha dato quel tanto lì, però quello lì vale molto di più. Yeah, ma da, non fa niente. Io mi ho rimesso quello che avevo prima, e va benissimo lo stesso, mi darò quello. Adesso quando mi prenderò prima dell'estate quell'altro non c'è bisogno di niente. Costa un pochino di soldi, però è in gamba davvero. E questo qui costa 450 euro, non costa 2 lire, no? Questo è 4,70, no? 4,70 più 20 euro di spedizione. E che apparecchio è, si può sapere? Quando lo prenderò te lo faccio vedere. C'ha 170 watt. Già va bene, no? Già va bene. Apparecchiare delle vaccine. Già, bello, bello davvero. Tutte le bande, va da tutte le parti. Ed è un baracchino però, attenzione, non è che è un baracchino, però è bello davvero. Cambia quattro colori, lui normale è tutto verde. È il colte, dai. Cobra, il cobra. No. È simile, quasi simile al cobra, però è un'altra cosa. Questo è il cobra, è bello, cobra è bello, il cobra arriva quasi qui infatti lì, il cobra è bellissimo, e già lo so, perché sono entrato anche a vederlo quello lì, quel cobra, ma non uno, me ne sono 50 miglia, addirittura c'è anche con la bandiera americana davanti, bello, bello davvero, però a 170 avanti non c'è nessun cobra che arriva. Come lo zera con la bandiera americana, se uno è il mio me l'avrei messo, sai che con le 6-9 ti mandano la mascherina americana, tu smulti le manopole, metti la mascherina che è adesiva, come l'altra è in coso, è sempre l'anilino adesivo, la metti sull'altra e ti fa praticamente la bandiera americana, l'apparato americano, invece mi piace più così che come. Ma io ti dico una cosa, guarda, anche il 48 l'ho visto con la bandiera americana e fa veramente cagare, ma non poco, non come, secondo me, così, lucentine blu è tutto normale, è più bello, secondo me, ma la bandiera americana è tutta una cagata, secondo me, mio parere personale. Che per me è un po' rovito, è proprio grezzo, come si dice. Bianco. Bianco è bello, bianco, io lo vedo bianco, ho fatto discoteca o già? Quale? Quello che ti ha prestato più il palo? Quel 48 di Pietra. No, no, non ci ho fatto caso. E allora forse ne ho più bucato. Cazzo, ma era una bomba, una radio mostruosa, cazzo, micidiale, penetrante, cazzo, ma bella davvero, bella veramente. E non c'aveva doppio modulatore. Qual era quella nera? Chiapparrogia, quella nera. Ah sì, già me la ricordo, però avete la pietra, non ti ho capito. Tipo si chiama pietra quello che lo fa. Ah, tu metti quella di pietra, io pensavo, sai cosa ho pensato? Un apparato fatto con la pietra, scolpito di così, magari ha detto si è pintato, si l'ha fatto. Negativo, cazzo, ma andiamo a del radio, isciu, cazzo. Eppure vedi, a volte dicono, sì, il doppio modulatore a volte serve, a volte no, perché, cazzo, se sentivi quella lì, cazzo, era una cosa mostruosa, cazzo, ma proprio mostruosa, una radio paurosa. Io l'ho sentita, provata, so chi ce l'ha e tutto. Ma quale? La Nieta. Ma c'era qualcuno di qua? Sei quella che avevi tu, sì? Quella Nieta. Tu. Come la 48 meno, stai dicendo. Che la forte di radio non va bene, eccetera, eccetera. Non lo so, stai dicendo lo stesso quello che c'ha Pierpaolo, là. E com'è? Con i copertini. Ehi, ma dico, com'è la radio? È buona, è bella, dai. L'avevo vista a casa di cose, di Giuseppe. L'ha prestata Giuseppe un giorno perché non so cosa c'aveva l'apparato e ne aveva prestato il suo. Ce l'ho visto lì quando sono salito a casa di Giuseppe. No, già è bello, si esce bene il radio. Guarda, io... un'ora al giorno stiamo mettendo da parte, non vedo l'ora tanto di avere quella. Appena ciò, quella lì, questo, le parcheggio. Sì, dai, io uso un po' tutte. Io quello che non si usando era un 48 Plus, che è un apparato che va molto bene, però non lo sto più usando. Mi sa che questo qui lo tolgo dalla stazione, buonanotte. Tanto non lo uso, cosa ci sta a fare? Quale già? Plus, il 48 Plus. Beh, lasciatelo lì, ero già di disturba, scusa. No, adesso ci siamo comprati la camera da letto nuova, ci deve arrivare a giorni. E mia moglie non vuole più, siccome l'altra camera da letto è la bianca, non vuole più questo mobile dove ci abbiamo, dove c'è tutti gli apparati, vuole farne una in noce come il color noce, come la camera da letto. E adesso devo fare un progettino. Perché secondo me io gli faccio due ripiani e basta. E le voglio fare una serranda che chiuda, di modo che vada scomparsa, e dei cassetti sotto, di modo che ci metto tutta la roba che mi occorre. Se ci devo mettere le cuffie, ci metto le cuffie, così non stanno là in giro. Ma come mai tu non te la metti in coso? Mi sarà pronto. Mi disturberebbero, Marco che grida, che fa il televisore, non riuscì a parlare, prima ce l'avevo fuori la veranda, come ce l'hai tu, ma poi il caldo, il freddo, tutto quanto, mi ha fatto già una idea, però ti lo pongo dentro casa, meno male quando mi salte la smettetta ci ho pensato a metterlo qua, in sala non fa, perché molte volte ci dividiamo, uno quello problema lo guarda l'altro, e magari Manuela si guarda un film in sala, e mia moglie, Marco e io ci guardiamo un'altra cosa nell'altra casa, e niente. Quindi come viene qua? È l'unico posto dove posso stare un po' tranquillo. Positivo. Ma già, come sta andando con 4 watt? Aspetta che mi devo attaccare allo smitter che ci vuole più un cacchio, ma si vede. Dai, è vero che sei cieco tu. E sei quasi 9,20, dai. Addirittura? E così allora quanto sono? Guarda un po'. È sempre da 9,20 perfetto. adesso? Quasi, ho detto 9.20, non ci arrivavo perché 9.20. Adesso è 9.20 e lo passi un po' anche da qua. E aspetta adesso, se mi fanno l'operazione a quell'occhio mi compro gli occhiali che vedo vicino da lontano e so buttare una bomba. Si conferma, ma ho detto che vede benissimo. Mio padre, dopo che l'hanno operato a 94 anni, vedeva le scritte piccolissime che io non vedevo. Infatti io oggi mi ha detto, cazzo, quanto vedo bene la televisione, prima non lo vedeva benissimo, adesso lo vede perfettamente bene, ma proprio di lusso. E se sembra, mio padre diceva che sembra che ti amplificava la vista, come se avessi una lente davanti, di quelle grosse. Gamma. Ascolta, cosa facciamo? Scendiamo nel 5 normale, insomma, c'è qualcuno? O nel 10, boh. Ma io sono 10, dai.